abbassato, lo tengo, ho abbassato il macchigain, come lo tenevo sempre in AM, guarda a vedere com'è. Attacca il rimorchio. Ciao Giulio. Giulio è entrato. Sì Nathalie, per parlare in città, come siamo vicini noi, scusa che mi si stanno incrociando le corde vocali. Dicevo Nathalie, per parlare in città è più riposante così. E confermo che è superiore la modulazione rispetto al 60, ma a parte la timbrica più calda, quel soffio di fondo è come se fosse un... non lo so, non si adatta, non lo so. E vabbè là, teniamo questo, useremo la portante fissa quando parlo in banda laterale. E boh, perché mi sgancia la portante, mi si stanca il dito e ne sale il tatto, perché è duro. Ma è duro di serie, di fabbrica? O si è scassato? No, deve essere duro di fabbrica, boh. Ho provato a passare il disossidante, tutto quello che vuoi. Però adesso ce l'ho così, se lo muovo poco a poco mi sgancia la portante. Ehi. E Luca è sparito? Come mai? Come siamo passati in banda laterale è sparito? Oppure ha fatto queste greca, boh, o sta, vabbè che lui sta sempre inventando lì. Vediamo se c'è. Oh, io ci sono, stavo passando perché sto parlando in verticale, poi sono passato e stavo sganciando per andare in AM. Eia, però hai notato questa modulazione è già superiore, è più calda, non ha quel soffio di fondo, e anche minchia, scusate, ho la gola ancora da rodare, e è migliore dell'altro, anche per il soffio di fondo, questa è migliore. Confermo. Ehi vabbè, questa è la V508, però devo usare la portante fissa, perché sennò mi si stanca il dito e mi fa quel gioco lì, che mi sgancia la portante. Ma non lo puoi sistemare. Come? Non lo puoi sistemare. No, se non si sistemeggia. Come ti muovo poco, gatta me la sgancia. Perché mi si stanca il dito, perché è duro, come tasto. È la V508 questo qui, quello che sto usando, quello che usavo sempre sull'ICOM. Sì, va meglio. Mia Giulio, ciao Giulio, ciao Natale, ciao a tutti, attacca il rivolchio, già va bene, la futidini. Io gli ammino a futto, già. E allora, perché ti preoccupi, già va bene, già va bene, non c'è problema. Io ti sento con le orecchie, per cui col naso no, ma con le orecchie sì. E l'altro non si adatta molto, da. Seguiranno anche per la formazione nelle parrocchie. L'altro microfono, ci vuole questo per forza. Va bene. Ha giudicato. Lo avevi provato con tutte e due le impedenze. Adesso non mi ricordo quanto erano, tot kilo ohm o tot ohm, per sapere se l'uno o l'altro va meglio. Va? Ciao Mi, non sei uscito. Buttalo via che non sta uscendo. Ciao Marco e ciao Luca, buttalo via Natalì che non stai uscendo, dallo a me, così almeno lo faccio uscire io, di casa però. Hola. Sì che sta uscendo, adesso vedo che sta uscendo, ho detto che non l'ho usato con le due impedenze diverse, ma... No, perché dico, se non fa 50 kg, adesso non mi ricordo com'era, 5,50 i kilo, non me li ricordo, è passato tempo. Comunque credo che il 60 dia il meglio di sé con i K. ancora a fare, è nato, c'è, è di quelli apparati là, quindi. Aspetta che lo provo con le impedenze diverse. Di nuovo Natalì. Come stai facendo? Sta uscendo basso zero di radio. Vai giù. Mamma mia, questi microfoni, sì. Prendi il microfono del videoregistratore, con buona scherza, bene. Va bene, dai, comunque già c'è lo sistema. È da ieri che sta sistemando questo microfono. Ha provato anche il K va bene, lo stesso, solo che non può essere amplificato perché non è adatto appunto per avere l'amplificazione. Il K è un microfono, cioè l'MC60 è un microfono dinamico, ma che va bene ad esempio con il K, perché lo sappiamo, lì rende meglio. Però è adattabilissimo a qualsiasi cosa. Io mi ricordo che qualcuno l'aveva adattato anche al PMR, non al PMRR, no, al PMR, al Maufeng, dunque lo uso qui, funziona dappertutto l'MC60 ed è fattibilissimo per ogni radio, per ogni genere di trasmissione. Confermi, confermate, chi è che me lo conferma? Lo so, io l'ho sentito anche in VHF, senza processore né niente, e usciva un bel bene. Allora, questa è l'impedenza che avevo poco fa. Marco, guarda, adesso la cambio. Allora, come te? Adesso ho cambiato l'impedenza. No, allora, cambiandola è un po' più bassa la radio e si sente un po' lieve quel crepitio di fondo. Se aumenti la modulazione penso che aumenti anche quel soffio, quella specie di soffio, dove, come te l'ho già capito. Aspetta, ecco, guarda un po' la modulazione. Ah, c'è problemi nella radio, ora c'è quasi uno di radio. Confermo, adesso si sente radio 1 e il crepitio è aumentato un bel, il soffio. Vabbè, dai, continua a fare prove, dai. Vai Marco. Ma soffio Natalì, c'è qualcosa che non va. Solo soffio, non sta andando, non ci siamo, NCS. Anda bene, va, e lo tolgo. Adesso si è capito, lo tolgo. Scusate, nel frattempo mi guardo i guazzi un attimo, le stazionarie qua. Un attimino, Bianco. No, scusa, ero in FM per avere più watt, no, con 22 watt così, 22, 24, 1 e 2, massimo 1 e 25, però le vedo oscillare le stazionarie, quindi c'è in arrivo qualche falsino contatto latente, non è questione di scherzi, come credevo io. Questa notte ha fatto un vento, Luca, non so se tu eri sveglio a una certa ora, ma certe bordate di vento, e io ne ho approfittato, ho controllato le stazionarie e un po' vedevo oscillare, infatti. Va bene, niente di grave comunque, quindi 1 e 2, 1 e 3, anche se fosse 1 e 3 non è niente, con 25, con 24 watt me ne frego. La colpa è della neve che c'è sul Gennargentu, è quella la colpa, per quello che non escono bene questi microfoni. Hola, adesso sì che sto uscendo. C'è anche problemi di spinotto di dietro questo microfono, un casino. Sì, adesso stai uscendo Natalì, è più calda, niente soffio, infatti tieni quello. Eia, naturalmente diciamo, apparato performante questo, no? Giusto. Eia, questo è la V508, però c'ha problemi anche di spinotto di dietro che è a crimpare, c'ha l'RG45 Luca, questo qui, e fa un falso contatto anche lì. Ah, ma io ho preso tutto quanto per quelli spinetti lì, pistola, pistola crimpatrice e spinette pure, perché senza quella non ci riesci, non lo puoi fare. Già lo so, ma forse è crimpato male, perché secondo come va non esce, fa falso contatto. Ah, vai andando in diretta a chi lo vuoi, è che non so se è, se è una lamella della parte della spinetta o della parte del microfono, prova a pulirla magari. Ma gli ho scruzzato anche il coso per i contatti. A me poi c'è qualche filo. E prova col tester, con i due puntali da una parte e dall'altra, e vedi un po' muovendo il cavo se ti fa lo scherzo. È un caso, mamma mia. Forse hai la neve sul tetto, è per quello che non trasmette. Già trasmette. Cerca poi. Adesso sta trasmettendo. In un modo però bisognerebbe trovare il modo di sbloccarlo questo cavolo del. Allora si legge tra due e vedo che sta andando. Eia. Quando nevica, io non ho mai sperimentato, ma quando nevica che praticamente c'hai neve sui radiali e quasi sullo stilo, cosa manda tutto in corsa? Ma cosa ne so io, cosa ne so, la mia funziona sempre la radio. Sta nevicando. E poi da noi a Sassari è diventata una rarità la neve. Almeno una volta facevi qualche foto, no? Quando era tutto imbiancato, adesso ci stiamo tropicalizzando, siamo tipo Nord Africa, là. La neve a Sassari la vedremo poco e niente. E se continua così avremo. Lo può guarire che. Altro che il 56, caspita, nel 56 è diventata proprio, era problematica. Problematica che non arrivava nei rifornimenti. Cioè, mamma se l'è goduta con la neve lì, sì, bella a vedersi, però poi dopo due o tre giorni cominciava a diventare proprio problematico, non arrivava la roba, la merce, per carità. Marco, ehi, come fa a nevicare? Ma se stanno sciogliendo i ghiacciai, boh, non se ne capisce niente con questo clima. Ehi, boh, poi chi la dice cotta, chi la dice cruda. Non lo so, ci sono quelle che vanno lì a piangere in TV, quelle youtuber preoccupate per il clima, vabbè, tutto ormai è tutto protagonismo allo stato puro, quindi la verità non la sapremo mai. Poi questi programmi in TV non è che siano accurati, sono sempre sensazionalistici, vogliono fare notizione, boh. Già rido se si interrompe la corrente del golfo del tutto, mi voglio vedere come ci usciamo noi. Sicché sono i ghiacciai che stanno formando la neve. Dice che quando stanno scendendo i ghiacciai, ma che ne prendi? Ah boh, finiamo tipo quel film della glaciazione, com'era? The Day After Tomorrow, l'avevi visto? Praticamente tutto l'emisfero nord finiva sepolto nel ghiaccio. Vabbè, quelle fantasie, no, ancora sì, no, e c'entrava lì la corrente del golfo, che dice che è importantissima per l'equilibrio proprio del clima sull'intero pianeta, o almeno nell'emisfero nord. Vabbè, i punti già non nevica, intanto, vero giù? Qui noi abbiamo un tema, manco in corso di metà non nevica più. Tutta la zona dei Frati, dai Frati sino a Bancari, è di un ombrellone così grande, che quando nevica al di fuori dei punti, qui non lo permettiamo noi che nevichi, anche perché abbiamo tutti la superficie, dunque nevicando e sciogliendosi subito di punto in bianco, con tutti i maggiori bisogni, oh yeah. Marco, dalle tue parti che sei un po' in alto, lì devi fare, ma Luca, qui non puoi cercare, non glielo permettiamo noi di arrivare. Quando ti arriva quello lì me lo lasci che mi serve, anche se non riesci a contarlo, ma poi laggiù un usuro. Perché quello là non lo so se si può aggiustare. Ma non lo senti Giulio, Natali, forse non lo senti. Aspetta che c'ho uno squelci alto qua, che ho cambiato apparato. Ah, perché lo stavi sovramodulando. Va bene, già. Ti mando le foto di tutte e due, come arriva. Vedi, scegli tu poi. Giulio, perché c'è uno squelci inserito natalino, così che non ti sentiva. Avanti Giulio, ripeti. Ho detto che qua non nevica, perché noi abbiamo una bella cupola, abbiamo di parecchi metri quadrati, qualche chilometro quadrato tutta attorno alle punti, e abbiamo anche tutti quanti il caminetto acceso, per cui il calore del fumo fa sciogliere la neve prima che arrivate qua. Non glielo permettiamo noi di arrivare qua alla neve, siamo in basso, capisci? Allora, ma Natalino non è che solo mettere lo squelci alto, ma pure il volume della televisione, ma tutto va, tutto in natura lui è. Lui è sempre a monte, a Monte Rosello alto, capito? No, basso, io sono basso, Monte Rosello basso questo è. Ma basso però. Sì, è un gioco che sei in basso, ma tu hai sempre l'idea del Monte Rosello alto, col volume della televisione a... Ma vero che ci vuole il coso, il passaporto per venire agli punti lì. Mi decido di mettere l'altro microfono per non sentire la televisione. Giulio! L'idea è cambiata, hai rimesso quel microfono che recepisce tutto quello che dice l'ambiente casalingo. Deve essere riabbassato la potenza, Giulio. Ho dovuto riabbassare lo squelch. Ma non vedrà niente lo squelch col volume del microfono. Io sto parlando che ti senti di più la televisione che la tua modulazione, niente di più. Ma comunque tu puoi farci ascoltare qualsiasi programma, anzi ti ringraziamo, guarda, così almeno abbiamo il programma televisivo anche in diretta, non c'è problema. Figurati, Baruchi Cittadista. Va bene lo stesso, già ti capiamo, non c'è problema. Vero Marco? Scusate, ho fatto questa greca e sono arrivato adesso. Per la TV che si sente la Natalino, io. Chiamiamo il broadcast TV in diretta. No, mi ero spostato sull'1 e sul 40 e ho notato che dall'1 al 40 sia notevole la differenza. È come che l'antenna sia elettricamente lunga, si fosse allungata elettricamente, cioè sull'1 segna quasi 1,1, 1,1 e sul 40 1,6 con questi watt che sono una decina, 1,6, c'è una differenza notevole, prima non c'era e sta piano piano l'antenna sta cominciando a accusare colpi, vabbè, fra poco compie 10 anni, un'antenna di plastica e poi si vedrà, dai. Riprendi Giulio. Ok. Sì, perché la soluzione migliore è quella di tarare l'antenna a centrobanda, e cioè sul canale 19, non sul canale 20 come qualcuno si dice. Il centrobanda in realtà è il canale 19. La tari bene lì e poi ti va bene, sia dall'1 che al 40. Naturalmente ci possono essere differenze scendendo nell'1 o andando sul 40, però è sempre una differenza accettabilissima. Ma siccome noi facciamo l'errore che incominciamo a pasticciare anche con l'ormetro, ma in realtà è così, bisogna stare l'antenna sul canale 19, centrobanda, a differenza di qualcuno che dice che centrobanda è canale 20, balle. Comunque ognuno fa quello che vuole, non è che sono io come impongo a nessuno, ci mancherebbe altro. Confermi Luca. Giusto, no, giusto. Oh, mi sento che sono nell'altra stanza. Sì. Sì Giulio, mi ricordo che quando abbiamo spiazzato questa io ho seguito la tabella di letteratura dell'antenna, no? Infatti io le prove le faccio sul 19, ogni tanto quando vedete sul 19 è una portante, e quello sono io che sto sempre controllando le stazionarie. E, come dire, ho seguito la tabella, però vedi, la tabella non tiene conto, che so, della lunghezza del palo, dell'altezza della terra, di un sacco di variabili, forse anche la lunghezza del cavo, conta che io ne ho chilometri di cavo, cioè ne ho 50 metri reali, e quindi secondo me qualcosa va a influire comunque, e quindi non è mai come la vorresti tu. Infatti risultava un po' sbilanciata la taratura verso i canali più bassi, che non proprio centrobanda sul 19. E comunque bene o male mi ricordo che misurando la stazionaria 26,2, 28,2 avevo gli stessi valori, è come se fosse tarata 27,2, no? Centrobanda. Questa cosa lì, cioè la taratura in punta, hai lo stube di taratura in punta, cioè devi scendere tutta l'antenna, regolarlo e poi riportare sull'antenna, è un po' una rogna. E mi ricordo che certe antenne invece avevano tipo una rotellina alla base o la spirale alla base, tipo la Mantova, no, per fare la taratura, e quella è migliore perché è una rogna in meno. E quindi vabbè, adesso l'antenna è un po' più sbilanciata verso i canali bassi, capito? Abbastanza sbilanciata verso i canali bassi, proprio quelli che non interessano, tipo una banda sotto, mi Giulio, capito? Dall'1 al 40 sotto, quella banda lì è più privilegiata purtroppo. Avrei voluto ritoccare l'antenna, ma a questo punto non ne vale la pena, se sono anche falsi i contatti e lì si fa prima a sostituirla, ma col bel tempo, tipo primavera, certo non adesso. Sì, no, ma c'è da dire questo, tu la stai su un canale e la taratura perfetta è quella, poi se ti sposti anche di un solo canale e c'è una piccola differenza, c'è un'anomalia, c'è sempre, premesso che magari ti copre tutta la banda in maniera buona, senza avere nessun rischio, però se noi dovessimo veramente prendere un oscillatore e far vedere l'oscillazione della frequenza canale per canale, ti rendi conto che da un canale all'altro c'è sempre una variazione, questo è scontatissimo, per cui non possiamo pretendere ad esempio di accordare sul 19 o sul 40, tanto per fare un esempio, e poi pretendere che tutti i canali abbiano lo stesso valore di oscillazione, no, nella maniera più assoluta, anche spostandoci di un solo canale qualche hertz di differenza c'è sempre, per cui dobbiamo abituarci a dire e a capire che noi caliamo l'antenna in un determinato, per un determinato canale, o meglio per una determinata frequenza, ed è quella la frequenza a monitor della nostra stazione, poi tutti gli altri sono frequenze adattate, nonostante che rientra sempre nel range di tutta la frequenza rispettiva alla 27. Mi sono chiarato, Marco? Certo, certo, c'è un punto di accordo massimo dove io ho registrato anche uno sta a uno, e poi man mano che vai più su o più giù sale. Comunque bene o male questa antenna se la cavava, perché quei 2 MHz di larghezza di banda ce li aveva, 2 MHz, cioè tu da un estremo all'altro ci avevi le stazionarie tipo 1,7, che ne so, 1,7 a 26,2 e 1,7 a 28,2, fate una prova rapida tanto per... Adesso invece si sta sbilanciando verso il basso, è un peccato là, per i canali alti, ma tanto alla fine mi DDX non ne faccio manco più, non c'ho manco più quella passione lì, capito? Non sono di quelli QSL menate lì, capito? È bello parlare con gli italiani, così almeno si capisce in toto, capito? Vabbè. Natalino è rientrato? Anche la semplice oscillazione, Natalino evidentemente ancora sta combattendo con quel microfono, anche il solo fatto che in una giornata che c'è un po' di vento, l'oscillazione dello stilo centrale, anche quello in minima parte ti può portare fino a tutti e 40 canali o anche addirittura a tutti i 400, tanto per fare un esempio, no, ma questo è un altro discorso. Sto parlando del singolo o canale relativo alla frequenza di quel canale, per cui se noi tagliamo l'antenna a quella frequenza è monitor e non se ne parla più. Poi tutti gli altri, tutte le frequenze che noi possiamo girare, il rotore dei canali, hanno una differenza, non ci sono dubbi. Questo è un fatto tecnico, naturalmente, studiato scientificamente nella tecnologia dell'elettronica, però ci dà la possibilità di parlare in un range abbastanza largo, come noi addirittura partiamo da 24 e finiamo, che so io, a quasi a 28 per quanto riguarda la 27, per così dire, che poi non è più 27 se arriviamo quasi a 28, però diciamo che la banda è abbastanza ampia, ma ce lo permette quel genere di frequenza, quel tipo di frequenza ce lo permette, ma non pretendiamo che ci possa essere la stessa taratura dal canale 25 ad esempio sino al canale 28, no? Nella maniera più assoluta, o Marco? Sì, sì, lo so, lo so. Poi già c'è, per tutto il resto c'è l'accordatore, almeno per salvaguardare i finali. Bene, adesso provo a staccare il rosmetro, voglio vedere il rosmetro incorporato dell'apparato. Una volta era precisino questo rosmetro automatico del presidente, di questo presidente. Diciamo che valore più, valore meno, segnava giusto, solo che c'è troppa roba di mezzo qua, cioè sto facendo una misurazione, vedi, con l'antenna non in diretta, c'è anche quel famoso filtro anti-TVI che influisce abbastanza, non poco influisce, cioè non vedi mai, se tu c'hai un E1 in antenna, metti il filtro e non leggi un E1, leggi un E2, un E3 e un po' influisce, nonostante l'impedenza sia quella giusta, eccetera. E vabbè, troppa roba, poi c'ho quel barilotto fuori che si riempie d'acqua perché non l'ho stagnato, lo voglio stagnare quando finiranno i lavori qua, no? E ogni volta lì lo trovo nero dentro, trovo ruggine, nero, ossido, uno schifo diventa, si forma addirittura la mucillagine, e lo devo pulire bene e poi mettere il CRC, quello proprio buono. Poi in estate glielo stagnerò. Peccato, però vedi, prima il cavo era un pezzo unico e poi era stato fatto quel danno tempo fa. Va bene, adesso stacco. Vediamo se Luca è rientrato, se Natalino è rientrato. Natalino, sì. No, è andato a fare merenda. Natalino è andato a fare merenda. Anche Luca è andato a fare merenda, vero Luca? Siccome sono senza orologio, secondo me stanno cucinando. Che ore sono, Giulio? Mezzogiorno c'è? Mezzogiorno meno 7 minuti, esattamente 11:53, meno 8 minuti praticamente. Sono andato a buttarci la pasta che stava bollendo l'acqua. Prova dell'esistenza di Dio. Capito? Ascolta, non trovare scuse, perché se tu la butti vuol dire che non è, a pranzo non ne avrai. Perciò non credere che noi tutti invitiamo, assolutamente. Ti arrangi da solo, visto che siamo nel nuovo anno. Ma te l'immagina questo Giulio quanto è prepotente stamattina. Manco, ma più piatto. Sempre con me ce l'ha oggi. Molto bene. Prova a buttare assieme alla pasta anche il microfono, magari si mette a posto. No, e mica l'ho passato addirittura per non farvi sentire la televisione. Io faccio da bravo e voi ce l'avete con me. Voi avete ripreso assieme, e ripeti Giulio. Ho detto Natali, se devi buttare anche il microfono, oltre la pasta, anche il microfono. Mi dici in quale cassonetto lo butti, e mi dai l'orario preciso però, in modo che passo io a quell'orario e il microfono lo posso recuperare io. Tanto se tu lo butti, a te non ti serve più. E così la vuoi tutti racconti. E mettete, non è che si butta da Marchesolo, è logico, cerco di ripararlo, se sta portato da Marchesolo, se fosse stato preportato da Marchesolo l'avrei lasciato portare da te, no, non l'avrei portato io, giusto Marco? Beh, certo, se da rottamare, ma se Marcello, Zavoni anche, io poi sono sempre andato da uno dei due, e cioè quello sulla strada per Alghero tornando verso Sassari, anche a chiedere pezzi, sono andato sempre da, penso sia Marcello, sì, cioè tornando verso Sassari a destra, l'altro era, mi ricordo alquanto maleducato, anche quando chiedevi pezzi di ricambio, non proprio non aveva gana, mi. Ma se non ha gara travaglia poco, il discorso è questo. Sì, beh certo, Marcello, oppure l'altro come si chiama, Tavoni, ma c'è anche l'altro, quello di, della strada, sulla strada per Budiavudi, c'è anche quello, oh, vabbè, comunque il più famoso a Sassari è sicuramente Marcello, poi c'è anche l'altro, no, non c'è problema, sono tutti e due famosissimi ad ogni modo. Sia Savoni che Marcello, no, non c'è problema. Ma è meglio comunque andare nei negozi, no? Così almeno lo compri nuovo l'oggetto che ti serve e non devi dare spiegazioni a nessuno, perché quando vai lì ti fanno pagare il prezzo quasi con lo stesso costo che costa il negozio nuovo di zecca. Sì, infatti alla fine uno va lì giusto perché non trova il pezzo a Sassari nuovo. Però è come il devi offrire, no? Tutti sempre, vai lì che risparmi, vai lì che risparmi. Alla fine, sì, magari risparmiata un pochino, poi si sciabideggia lo stesso l'altro, il devi offrire, no? Funziona a destra e non funziona a sinistra, capito? Dura da Natale a Santo Stefano. E quindi non ho risparmiato niente. No, ma infatti io non sono d'accordo per prendere ricambi auto usati, a meno che non si tratti di una cosa statica, capito, non meccanica, elettromeccanica. Vabbè. Ah, poi mi ricordo anche un'altra cosa che non c'entra però con le sfasciacarrozze. Una volta mi avevate indirizzato verso un elettrauto del monte, no? Per fare un piccolo intervento alla macchina. Adesso non mi ricordo esattamente la via, no? Ma mi era stato indicato dai CB. E ero arrivato lì e mi ha detto però bisogna andare a comprare il pezzo. Allora sai cosa ho fatto? Visto che no, voglia non ce n'era, sono andato, mi sono comprato il pezzo e me lo sono piazzato io. E poi era di una facilità estrema, io magari per non fare danno volevo far fare la realtà, invece era di una semplicità estrema e me lo sono cambiato io e non ci sono più andato visto che non avevo gana. Ah beh, certo, no, ma io ne conosco uno che ha una sfacciataggine proprio assurda, proprio parlando di elettrauto, un elettrauto che c'è a Monte Rosello, quando vai lì e gli dici qual è il problema della tua auto, e magari lui ti risponde in questo modo, perché lo ha già fatto altre volte con altre persone: aspetta un attimino che vado qui all'angolo, a bar, che vado a prendere un caffè e dopo ne parliamo. Ma dimmi tu se uno può, un cliente che ti porta al lavoro, può aspettare le tue comodità che vai al bar a prendersi caffè, lui dice caffè, poi magari si prende il cognac, ma quello è un altro problema, sono affari suoi, problemi suoi. Ma ti vuole bene facciataggine, e poi ti lamenti che non hai lavoro. Ma tu sei un grandissimo maleducato, oltre che irrispettoso nei confronti del tuo cliente stesso, o meglio di un potenziale cliente. Capisci Marco? Registrato, adesso lo mandiamo avanti. E magari è quello, a me me l'avevano consigliato il CB. Ti spiego Giulio, siccome era morto quel ragazzo, quello sì era volenteroso, di via, non so se si chiami via Venezia o come si chiama, via Catalochino, quello ricordate che era caduto dagli scogli, poveraccio, quello sì era volenteroso, quello anche se era incasinato. Dice guarda sono incasinato, sono pieno di lavoro, però dice fai una cosa, lasciami la macchina, ti fai una passeggiatina e quando torni magari te l'ho fatta, e me la faceva trovare pronta. purtroppo era morto prematuramente, e quello mi è dispiaciuto molto. Era sempre molto molto disponibile. Avanti il break. Ok, scusate se mi interrompo, Marco, c'è un variatore, un controllo errato mi serve. Allora, buongiorno, a chi è entrato, ma la radio è uno, è ai limiti dell'udibilità, non si sente quasi, tant'è che non ho riconosciuto chi è, doppio rumb? No, Gio Maria Sol, com'è adesso? Gio Maria, bassissima, ma sai cosa vuol dire? Non uno, è meno di uno, è al limite della capibilità. Che mi grazie che sto provando un apparecchio. Grazie, ma riprendi pure, scusate se vi ho interrotto, chiaro un frangiloppo, seguirà un poco bene la grazie Marco. Ho capito, grazie Marco, non ho capito il discorso, ho capito grazie Marco, va. Il segnale è buono, ma la radio è inesistente, Gio Maria, è strano. E adesso com'è? Siamo lì, forse appena meno bassa, però è una cosa proprio anormale, non è una modulazione normale, bassa ma normale, no, è proprio anormale. Ok, devo controllare allora Marco, dai, riprendi pure, grazie, scusate se vi ho interrotto il vostro questione, saluto anche a Giulio, dai, riprendi Marco. Adesso la potrei definire uno come radio, diciamo che è capibile, dai, è capibile, ma è veramente una modulazione fantasma. Giulio, hai notato? Sì, intanto saluto Gio Maria, ciao Gio Maria, auguri buon anno anche a te, così abbiamo esaudito il numero degli auguri, perlomeno se non dimentico qualcun altro mi dovrà scusare, cioè se dimentico qualcun altro mi dovrà scusare, non c'è problema. Sì, Gio Maria, in effetti è così, come ha detto Marco, la radio è bassissima, sì, io ti capisco, è la verità, io ti capisco ugualmente, però è molto ma molto bassa, non è certamente la tua radio, questo è scontato, precisamente quello che ha detto Marco. Ok, riprende pure di nuovo Marco. Ok, grazie a Giù, grazie anche a Marco, dai, buon procedimento, devo controllare il tutto, grazie, degli auguri, non è cambiato tutto, Marco riprende. Riprendo di nuovo io, sì, ti ho ascoltato ancora una volta, Gio Maria, sì, vabbè, avremo modo di sentirci, evidentemente hai qualche problemino, forse di microfono, non lo so, però la radio è bassa ma è chiara, questo ti posso garantire, è bassissima ma è chiara. Bene, bene, vediamo se c'è ancora Natalino o se sta soffiando il braciere per la pentola. Natalino, sì. Un saluto a Gio Maria, che ho tolto il rosmetro. Un saluto a Gio Maria, dai, speriamo che risolva. Capito Giulio a chi mi riferivo? Quell'elettrauto volenteroso, poveretto, quello mi è dispiaciuto. Ma quello del Monte, ma qua bisogna andare a comprare il pezzo. Ti stavo per dire, cosa devo andare? A piedi, ti lascio la macchina e vado a piedi a comprare il pezzo. Ma per carità. No, infatti non saprei da chi andare come elettrauto adesso. A me invece una volta sono andato da quello, no? E non mi funzionava il tetto di cristallo, non mi funzionava. A un certo momento la prima cosa che mi ha detto, ma probabilmente ci sono le spazzole che sono troppo aderenti al vetro, e allora non ce la fa. Ma cosa devi dire? Ma molto ci vuole, ammesso che sia così, che non può essere nella maniera più assoluta. Tu apri le spazzole, le apri e fai girare il motorino, dovrebbe girare senza l'attrito del vetro, no? E mi dice sempre il gotto, cosa mi sai dire? Già ho capito di che stai parlando. Quello lì è sempre cotto, fa altro che andare da un bar all'altro, sempre, continuamente. Cioè, te lo sto dicendo, fa aspettare il cliente perché lui deve andare al bar a prendersi il cicchetto. Ma a me è una vergogna, guarda. Poi si lamentano questa gente che non hanno il lavoro, o che sono sempre dei miserabili. Per questo se non trovi mai, e quello che guadagni te lo bevi al bar, ma quando mai, Marco? E mi sa che è quello. Adesso io non lo so se i CB mi abbiano spinto lì per dolo, cioè, sapendo che era un lestofante, oppure non lo so perché, oppure a qualcuno gli è andata bene e magari il lavoro gliel'ha fatto. Che poi era una cosa talmente elementare che io quasi mi vergogno di non averla fatta direttamente io, poi me la sono fatta io. Praticamente cosa è successo? Che il pulsante dell'Alfa Cristalli nella Opel Agila aveva fatto, si era interrotto, aveva fatto appena di fumo, si era visto appena, ho detto qua brucia tutto. Poi dentro ho smontato il pezzo, sono andato in quello dal corrivenditore che c'è in quella via vicino alla piazzetta, dalla parte opposta, no? Ho preso il pezzo, l'ho montato, ho attaccato il connettore, aggiustato, per dire, me lo sono fatto io. Prima credevo fosse qualcosa di più impegnativo, invece ho visto che c'era stato un piccolo corto lì, per fortuna. Ti dirò che nemmeno il fusibile era intervenuto, si era già interrotto di suo con quel piccolo corto, insomma, vabbè, l'avevo riparato io alla fine, ecco, altro che elettrauto, però certe cose io non le posso oppure non le voglio fare, quindi ci vorrebbe un elettrauto di fiducia, che sia solo elettrauto al limite, non meccanico. Sì, beh, certamente così, no, ma io la verità, io all'elettrauto ci vado raramente, ci sono andato una sola volta proprio quando mi sono fatto sostituire il piede di cristallo, ma poi per altre volte tu tieni presente che io ho la patente dal 1966, fai un po' il conto di quanti anni che io guido, ancora prima avevo la patente per la moto eccetera, che ce l'ho sempre. Non mi sono messo mai questo problema, io sono andato sempre da un meccanico bravo, per me il meccanico bravo, mio meccanico personale è Franco di via Montello, cioè di via Gabriele D'Annunzio, mi sembra che sia via Gabriele D'Annunzio quello, sì, e dunque di fronte all'ex Smeraldo, lì ce ne sono due meccanici, uno si chiama Walter e uno si chiama Franco, quello più giovane diciamo, quello, io vado sempre da quello per qualsiasi cosa, sia per il fatto meccanico che per il fatto da elettrauto, perché lui è uno che sa fare tutto, perché fa i corsi di aggiornamento di qualsiasi macchina nuova e modello che viene prodotto da qualsiasi ditta, dalla Fiat, dalla qualsiasi macchina, insomma. Lui va sempre a fare i concorsi di aggiornamento. Quando vai lì stai tranquillo che lui ti sa dire il motivo in 5 minuti, perché è attrezzatissimo anche con strumenti particolari, attacca un altro strumento e ti dice qual è il difetto, senza stare lì a smontare come ne fanno certi, si smonta la mezza macchina per dirti il difetto l'ho trovato dopo 3 giorni. No, lui attacca questa macchinetta che è una specie di computer al quadro, non so dove, di preciso, e ti dice subito qual è l'anomalia della macchina. E ci va a colpo sicuro sul punto dove deve lavorarsi, o manco. Sì, dovrebbe essere la presa OBD. Oscar, bravo Delta. Sì, ci attacchi là il computerino o quel tablet lì col software giusto. E sa esattamente vita, morte, miracoli del motore, anche la mappatura del motore ti fa vedere o roba del genere, la presa OBD, a meno che non sia invece una presa dedicata dal lato motore, capito? Invece la presa OBD è dentro l'abitacolo, di solito è o sotto il volante, o in certe macchine lo trovi a destra invece, addirittura sul fondo del cassettino la mettono questa presa OBD, sembra una specie di presa SCART, e quella è utile non solo per quelle cose lì, per controllare il check della macchina, no, le anomalie, ma serve anche per altro, per cose abbastanza utili. Va bene, vediamo se Natalino fa il capolino, se non sta già mangiando. Io ho già scolato la pasta e sto per addentare la pasta. Bene, bene, ok. Io invece, noi mangiamo tardi, io inizio all'1 e oggi faccio, mi sa, i ravioli, ricotta e spinaci. Col sugo e parmigiano. E il secondo poi si vedrà. Ok, allora se stai iniziando a mangiare è Natale di buon appetito, non posso augurarti diversamente altro, e magari buona fortuna e buona digestione anche, va, quello te lo posso aggiungere, non c'è problema. Sì, Marco, ma è così, appunto, mentre invece ci sono altri meccanici che per trovarti il difetto, il problema che ha la macchina, ti smontano mezzo motore, ti smontano e poi magari te lo rimontano anche in maniera un pochino così alla buona e ti fanno stare 2 giorni, 3 giorni senza macchina, a piedi, perché lui ancora non ha capito qual è il problema. E invece lui con questo sistema, con questo attrezzo, che costa sicuramente, costa un sacco di soldi, ma lui per lavorare seriamente se l'ha comprato, è giusto che sia così. Ogni meccanico deve fare queste cose, perché oggi sono finiti i tempi di lavorare con 4 chiavi in officina e basta così, perché allora in quei tempi lì anche noi autisti, qualche lavoretto riuscivamo a farcelo, ma oggi con le macchine di oggi, con le macchine moderne, con tutta l'elettronica che c'è, tu se non sei attrezzato non puoi lavorarci, o meglio non ne capisci niente, anche se sei un meccanico, a meno che non fai la macchina a pezzi e poi la rimonti. Tutto lì, Marco. Io mi ricordo, da giovane ho fatto il ripasso al motore al 1100D, addirittura l'ho tolto da solo, da dentro il vano motore, l'ho tolto da solo, ma erano altri tempi, perché? Perché erano motori semplici, erano praticamente motori, come dire, motori di moto, per così dire, per intenderci. E allora si potevano fare certi lavori, ma oggi come oggi, con tutta l'elettronica che c'è, non possiamo fare niente, nemmeno, quasi quasi facciamo danno solo a guardarlo il motore o Marco. Esatto, quello che dico io, troppa elettronica, sì, servirà per tante cose, però è allucinante, tutto centraline, poi roba che se si guasta costa non più la testa, perché poi se vuoi avere le garanzie, caso strano, la roba che si rompe non è mai coperta dalla garanzia, mai. Poi non puoi più fare niente, non puoi sgommare perché c'ha, non so, l'ASD, non puoi inchiodare perché c'ha l'ABS, no, non sei padrone della macchina, se voglio far uscire il fumo dalle gomme non lo posso fare, perché antislittamento, antitozza, anti quello, oia. Poi questa elettrica non ne parliamo, e ogni tanto pigliano fuoco le Tesla. Infatti, soprattutto queste macchine elettriche di adesso, l'altro giorno stavo seguendo un video, una Ferrari, aspetta che era, non mi ricordo la sigla, vabbè, comunque una Ferrari, proprio una macchina come si deve, anche quella si era incendiata, perché? Perché il problema qual era? La pompa della benzina è quella che risulta sempre sotto, c'è un galleggiante sotto, se viene dietro, tutte le macchine in corrispondenza del serbatoio hanno un galleggiante che è la pompa della benzina, tu appena che metti la chiave nel quadro che la giri, già la pompa sta già tirando praticamente, no? In modo che sia pronta per la messa in moto. E ci sono delle guarnizioni, sono delle parti in plastica, e a un certo momento si sa, la plastica col passare degli anni si rovina, si usura e dunque perde. E sentivo questo odore della benzina, cioè mettevo in moto, spegnevo e sentivo tutto questo odore di benzina, allora questa macchina non ha mai fatto odore di benzina. Che ci avevo fatto? Ma io per prudenza ho fatto il numero del mio meccanico, ho detto Giulio non ti preoccupare, è la pompa della benzina, portamela, guarda che può essere anche pericoloso, perché la pompa risulta sotto il sedile di dietro, se c'è qualche infiltrazione nella parte dietro della macchina c'è la marmitta, se cade qualche goccia sulla marmitta è pericoloso, si può incendiare. E così è, infatti è successo quello che ti stavo dicendo a questa Ferrari, per dirti, no, Marco, sono andato a lui, gliel'ho lasciata in un paio d'ore, mi ha dato la macchina, 240 euro, tranquillamente la macchina è in ordine, a posto, tiene presente che la macchina mia ha appena 43.750 km, in 14 anni che la sto usando, Marco, tanto benissimo, la uso pochissimo, anche perché c'è l'altra macchina per cui alterno un po' una un po' l'altra. Ecco Marco, questo che ti ho voluto dire. Eia, ciappa. Eia, 43.000 sono pochi, ancora in rodaggio, tra virgolette. Mi sono distratto un attimino, mannaggia a me, sto perdendo quota. Va bene, poi prima stavate parlando di auguri, io auguri non ne ho manco fatto perché la gente chi più che meno ha tanti problemi che mi sembra di insultare facendo gli auguri. Poi questo Natale è andato male, sono stato veramente ma veramente male, credo che fosse un'influenza, però brutta e brutta brutta, non ero mai stato così male da quando avevo 3 anni. A me le influenze non mi beccano mai, lo sai, non sono come refrattario, ma questa mi ha incisciato malamente. E quindi meglio dimenticarlo sto Natale, dai. Sì, la stessa cosa ti dirò, perché di solito io ho sempre mandato dei messaggi, gli auguri, eccetera, eccetera, eccetera, no? Ma già da prima di Natale io ho cominciato a stare male e ne sono uscito 2 giorni fa. Per dirti, no, ora grazie a Dio già mi sono ripreso bene, ma sino a 2 giorni fa avevo sempre qualche dolorino che mi era rimasto, dai. Ma prima erano dei dolori abbastanza significativi, soprattutto iniziando dal collo sino alle spalle, alle gambe, eccetera. Oggi già sto bene, la verità, sto bene già da 2 giorni a questa parte, sto bene. Per cui non ho avuto molta voglia, non solamente di fare gli auguri, ma nemmeno di leggere, di guardare il telefono, nulla, no. Sì, qualcuno poi magari l'ho anche risposto, forse anche in ritardo, non lo so, probabilmente per educazione, perché se riceve il messaggio si risponde e basta, ma di mia iniziativa quest'anno non ho potuto fare un granché, perché stavo male, perciò non stavo pensando, non stavo certamente pensando agli auguri di Natale, che io li faccio adesso a tutti di cuore, ci mancherebbe altro, che sia un anno molto ma molto migliore degli anni passati, è sempre migliore, sperando che vada avanti così. Ok Marco, comunque ormai l'influenza è passata, dai. Sì, infatti poi da festeggiare non è che io sia molto religioso, anzi tutt'altro, quindi per me il Natale sì, si sta in famiglia, siamo già assieme, ma tutto finisce lì di sacro, non c'è un granché. E io lo stesso, ho detto, vediamo che mi fa gli auguri, che me li fa, rispondo, eccetera. Ma francamente ero abbastanza demotivato. Per fortuna adesso mi è passata l'epifania, eccetera, domani si torna alla normalità. Va bene, allora io auguro buon pranzo a Natalino, se stava ancora ascoltando. Luca sarà già a arrostire, sta sempre arrostendo Luca. Giulio, lo stesso ti dico, magari fra poco comincio a cimentarmi anch'io col pranzo, ok? E ci sentiamo quando capita, perché io non sono molto presente, non ho tanta voglia, quindi entro, oggi è stata un'eccezione, dai. Soprattutto di mattina per me è tabù entrare, dormo da molto tardi e quindi faccio tardi la mattina. Bene, ci sentiamo Giulio, buon pranzo, buon proseguimento di giornata e alle prossime, ok? Ok Marco, sì, anch'io appunto quest'anno ho avuto questo atteggiamento proprio perché, ma non per mancanza di rispetto nei confronti della gente, ci mancherebbe altro, figurati, se c'è uno che ha iniziative per fare gli auguri sono sempre stato io, o quasi sempre, però ripeto, quest'anno stavo male, allora non ero certamente nelle condizioni di fare ciò che volevo, perché avevo tanta sofferenza, soprattutto il collo, che non potevo girare il collo di 1 millimetro né a parte sinistra né alla parte destra, perché si può immaginare, dovevo guardare dritto. Tu immaginati se avessi dovuto guidare proprio in quei giorni come avrei dovuto fare, che sei costretto a guardare dritto in linea senza vedere i fianchi né da una parte né dall'altra, non era possibile assolutamente. Infatti parlavo con la macchina ferma già da un bel po' di tempo, almeno un mese, che sì, si è diventato la mente molto, però non la sto usando. Ok, ci sentiamo Marco, grazie per la chiacchierata, buon pranzo anche a te e alle prossime, dai, ci sentiamo, ciao ciao, se coincide magari stasera vedremo, ok, ciao. Ciao, ciao a tutti, ciao ciao ciao. Thank you.